le associazioni ambientaliste, chi domani protesta, hanno ragione, secondo me, nel sottolineare come in questi anni, dal 2011 a oggi, cioè dal quando è stato appunto promosso il referendum sull'acqua pubblica, che ha ottenuto un risultato molto importante dal punto di vista anche numerico, di adesione, di partecipazione al voto di quella tornata, dal 2011 a oggi purtroppo la situazione non è cambiata, nel senso che non si è proceduto e non si è dato seguito a quella volontà referendaria, e questo è un dato inconfutabile. Nello specifico però quello che è successo è questo: noi al 31 dicembre, parlo per l'area metropolitana di Bologna giusto per capirci, al 31 dicembre scade la concessione attraverso cui ERA gestisce il servizio idrico integrato, e in assenza di provvedimenti legislativi quello che sarebbe accaduto è che Atersir, cioè l'ente preposto, avrebbe dovuto organizzare una gara per mettere a gara appunto la gestione del servizio, e probabilmente l'assegnazione sarebbe stata di 30 anni, e cioè noi avremmo completamente chiuso la discussione sulla ripubblicizzazione del servizio idrico. Mentre il provvedimento che abbiamo introdotto con appunto l'emendamento che è stato approvato in aula un paio di settimane fa ha prorogato le attuali concessioni di un tempo che arriva appunto al 2027, quindi sostanzialmente 6 anni, che sono quelli nei quali tra l'altro dovranno essere finalizzati e attuati i fondi del PNRR e i fondi strutturali del 2021-2027 che arrivano sempre dall'Unione Europea. Quindi in quel periodo di tempo è evidente che fosse necessario avere quindi una continuità gestionale, comunque un gestore pronto, diciamo, a intervenire mettendo giù quelle risorse da un lato, ma soprattutto dall'altro sul piano politico. Quello che forse è la cosa più importante, secondo me, è che la ripubblicizzazione del servizio idrico avviene o non avviene soprattutto in base alle volontà che esprimono gli enti locali, in questo caso ovviamente il Comune di Bologna. Quindi se noi non avessimo introdotto, diciamo, questa misura di proroga, quello che abbiamo scritto e che tutti quanti abbiamo condiviso nei programmi elettorali che hanno contribuito a portare alla vittoria di Matteo Lepore nel Comune a Bologna, e cioè il tema di come approfondire e arrivare a una ripubblicizzazione, l'impegno alla ripubblicizzazione del servizio idrico, sarebbe stato carta straccia, perché evidentemente al 31 dicembre Atersir avrebbe fatto la gara che avrebbe assegnato ad un privato, sia questo ERA, la Lyonnaise des Eaux, chiunque altro avesse partecipato alla gara, che è di livello europeo, il servizio per i prossimi 30 anni, e quindi noi avremmo, diciamo, ci saremmo giocati qualsiasi possibilità di riaprire la partita, cosa che invece nei prossimi anni possiamo fare. Ovviamente c'è un colpevole ritardo da parte di tutte la politica e le istituzioni in senso generale, perché in questi 10 anni non è successo quello che sarebbe dovuto succedere. Sta di fatto però che senza il provvedimento che abbiamo assunto, anche i prossimi, diciamo, quello che abbiamo scritto nei programmi elettorali, ad esempio del Comune di Bologna, sarebbe stato semplicemente irrealizzabile. Mentre così noi abbiamo tutto il tempo per, a partire dallo studio fatto che ATER si era commissionato all'Università di Bologna proprio per ripubblicizzare, no? Per capire come e in che misura è possibile ripubblicizzare il servizio idrico, a partire da quello studio, che ha bisogno ovviamente di tempo per essere realizzato e per essere discusso, a partire da lì abbiamo un'occasione nei prossimi anni, visto che a Bologna adesso c'è una maggioranza differente, insomma, anche nella propria composizione, per aprire veramente questa discussione. Faccio presente che qualche anno fa identico percorso si è avviato a Reggio Emilia, dove appunto inizialmente si era pensato di non prorogare la gestione del servizio, ma semplicemente di affrontare la questione con una deroga di anno in anno. Sta di fatto che poi quel percorso non ha portato da nessuna parte, perché la ripubblicizzazione non è avvenuta. Quindi, onde evitare di trovarsi in quella situazione, si è pensato, e io credo non ci fossero alternative, di assumere questo provvedimento legislativo che, ripeto, non è una cosa sine die, ha 6 anni di tempo di proroga, che sono quelli che ci servono per aprire finalmente la discussione sul tema ripubblicizzazione. Quindi, insomma, un posticipare per anche questioni tecniche, tra cui anche i fondi del PNRR che hai citato poco fa. L'ultima cosa che ti chiedo però riguarda invece la posizione politica. Tu hai detto nel Comune a Bologna c'è una maggioranza diversa, quindi questo dibattito si può aprire a livello regionale? Anche, ma ovviamente però deve essere chiaro un punto, che non è il governo regionale che dispone la ripubblicizzazione del servizio idrico, perché per come sono fatte le leggi, purtroppo, è materia che è di competenza innanzitutto ovviamente degli enti locali che fanno parte di Atersir. Quindi se lì avviene un cambio di paradigma, cosa che non è avvenuto negli anni scorsi e non è avvenuto a Reggio Emilia, dove il comune di Reggio Emilia e i comuni della provincia di Reggio Emilia a un certo punto si sono sono fermati e hanno detto no, no, questo processo non lo continuiamo a fare, quindi lasciamo le cose come stanno. Purtroppo il percorso inizia da lì. Chiaro che se a Bologna si intraprende un'altra strada, si decide di percorrere la strada della ripubblicizzazione, è inevitabile che la regione a quel punto sia di sostegno a quel percorso e debba essere a fianco dei comuni che chiedono la ripubblicizzazione. Però purtroppo, per fortuna, il percorso è questo, e io quello che sto cercando di dire agli amici e alle persone che domani saranno sotto la regione, che io andrò a incontrare assolutamente, perché considero persone con le quali è indispensabile dal mio punto di vista mantenere un confronto e continuare, diciamo, anche la collaborazione, è esattamente questo è il punto. Cioè, se noi non avessimo assunto quel provvedimento, non ci sarebbe stata una strada B, ci sarebbe stata una gara che assegnava la concessione per la gestione del servizio idrico ad un privato per 30 anni. E quindi semplicemente l'atto che abbiamo assunto è un atto che consente di tenere aperta la strada per la ripubblicizzazione, detto che ovviamente il sistema nel suo insieme è in ritardo rispetto al 2011, ma questo non è esattamente una responsabilità che può essere affidata a un consigliere o un gruppo che sta in regione, insomma, ecco.